La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Settimana molto densa nelle sale cinematografiche italiane, con ben 7 novità che approdano sui nostri grandi schermi. Ben ritrovati alla Rosa Purpurea, ne parleremo in questa puntata con un ritmo davvero molto serrato, perché ovviamente non rinunceremo anche a informarvi sulle novità in America, a giocare con voi con il DVD Game, a raccontarvi di una bellissima retrospettiva sui film in 70 mm. Insomma, avremo tanta carne al fuoco e allora noi cominciamo subito, come di consueto, ad entrare nel clima della sala cinematografica con il nostro audio sommario. Mi sta togliendo l'articolo. E Cal, se te ne occupi tu, voglio che sia tutto regolare dall'inizio alla fine. Dille non che se lo scordi, il servizio è tuo. Ce l'hai tu, alza subito la voce. Voglio un cowboy. Scusa, quello è già prenotato. Ma non ha ancora visto Hannah. Piacere. Ehi, Serapio. Apollinare, Ramon. Bene, bene, io sono Pombo. Voi lo sapete chi è quell'uomo a cui avete dato la mano? È Che Guevara. Non riesco a togliermi Alex dalla testa. Mi piaceva molto. So che come lui altri uomini mi vogliono solo per fare sesso. E questo mi piace. Dovrai ospitare un'altra natura. Diventare un animale. Cominciamo allora. E cosa vuoi che ci sia scritto? Wolverine. Abbiamo dovuto fare ovviamente una selezione, le suggestioni che avete sentito sono tratte da 5 dei 7 film che arrivano, l'ultimo però era X-Men, come avete immaginato, Wolverine, un altro capitolo di una delle saghe cinematografiche da supereroi più interessanti e più azzeccate degli ultimi anni, X-Men, le origini, l'ha visto per noi Diego Giuliani. Non fatevi ingannare, musiche apocalittiche d'urla belluine sono soltanto un bluff. Come da tradizione della vecchia scuola Marvel, in questo prequel della saga sugli X-Men, Wolverine si conferma un supereroe con super problemi. Hollywood reclama la sua parte d'azione, per carità, ma tra botte di improbabili piroette, atmosfere e suggestioni del fumetto riescono comunque a scamparla. Ti renderemo indistruttibile, ma prima dovremo distruggerti. Siamo in un presente non meglio identificato, comunque lontano anni luce dalle futuristiche ambientazioni dei successivi film. Come gli appassionati della striscia di Lee and Kirby nel lontano 1974, assistiamo alla nascita di Wolverine, un mutante che si presta agli esperimenti del colonnello Stryker per sedare il suo tormento interiore. Io posso fare in modo che sparisca tutto. Unisciti a me e avrai la tua vendetta. Fra retorica e toni roboanti si affacciano però picchi di ironia e parentesi d'antan che a tratti mettono in ombra addirittura Hugh Jackman. È lui il vero fulcro del film, mattatore indiscusso fin dal titolo, che barba da licantropo e frequenti siparietti a torso nudo sembrano però più che altro celebrare per la pura gioia del pubblico femminile. Bulimico nella sua costante presenza sullo schermo, l'attore australiano non ne ha però mai abbastanza ed oltre al set, questa volta sperimenta anche la produzione. Ovviamente ho fatto questo film come produttore, ma insieme alla Fox e ad altri soggetti già coinvolti nelle altre serie di X-Men, quindi non sono stato l'unico a produrlo. Detto questo, c'è da aggiungere che però come regista non saprei assolutamente come muovermi. Il regista è il vero coordinatore del film. Visual aesthetic from the beginning, very direct, very unwavering. A tenere saldo il timone e coordinare il film, come dice Jackman, è la mano del regista Gavin Hood, già premio Oscar nel 2005 per l'indipendente Zozzi. Scelta inconsueta e coraggiosa che ripaga però i miracolosi equilibrismi tra concessioni al mercato e gusto retro. David Benioff avrebbe certo potuto usare di più in fase di scrittura, ma la zampata d'autore si riconosce. Dalla colonia di mutanti prigionieri di uno scienziato pazzo all'esilarante scontro sul ring con l'ex supereroe ormai schiavo dell'obesità, lo sceneggiatore della 25esima ora torna a graffiare. Dal nuovo capitolo della saga di X-Men passiamo all'altro film che può avere grandi ambizioni di classifica. In questo fine settimana cambiamo target, però 77 milioni di giovani telespettatori in 12 paesi europei la seguono fedelmente, un merchandising da milioni di euro che spazia dai telefonini brandizzati alle borse, inevitabilmente a forma di chitarra, lo strumento musicale della pop star. Stiamo parlando delle impressionanti cifre di un fenomeno chiamato Hannah Montana. Dietro c'è una ragazza di 17 anni, Miley Cyrus, che della doppia identità ha fatto proprio motivo di successo. Infatti tutto il telefilm è incentrato sulla doppia vita di questa adolescente, che però, con il nome appunto di Hannah Montana, è anche un'amatissima pop star. Ora, questa serie di grande successo è diventata un film basato sugli stessi personaggi e sugli stessi valori: l'amicizia, la solidarietà, l'ambizione a trovare una propria strada. La prossima volta chiederò un jet con un bagno molto più grande. Perché sei vestita come Hannah Montana? Perché tutti la aspettano all'aeroporto, ecco, i palloncini, la limousine, i fan adoranti. Come dice Vita, dipende tutto dalla pubblicità. Già, quella donna dispensa davvero buoni consigli. Anna è una pop star affermata e sempre al centro delle attenzioni dei fans e dei paparazzi. Seguendo le sirene di un'agente arpia che la vorrebbe perennemente in pasto ai giornali, Anna è in rotta col padre, che è poi il padre vero di Miley, Billy Ray Cyrus, che invece la vorrebbe con sé per il compleanno della nonna nelle campagne del Tennessee. Anna accetterà malvolentieri i consigli del padre, ma in quei luoghi, senza tempo, troverà se stessa, le sue origini e il primo amore. Così tu e Miley siete molto unite? Non immagini quanto. Non rispondere se credi che sia troppo personale, ma lei uscirebbe con me se la invitassi? Chiedile di uscire. Dovrei. Tutto scorre a suon di musica facile e fresca come una brezza primaverile, le ragazzine gongolano, i genitori spendono e tutti sono felici, anche Miley Cyrus, che però i nostri microfoni rivela come anche a 17 anni ci si possa sentire un po' stanchi a volte con una vita così. I like to take a break at some point, but ogni tanto mi piace fare una pausa, prendermi un momento di respiro, anche se amo fare quello che faccio e voglio continuare sulla mia strada. Qualche volta però bisogna anche staccare la spina, soprattutto alla mia età. Lavoro tanto e da tanto tempo, voglio comunque concentrarmi sul prodotto finale, che è quello che conta. Un passo dopo l'altro, con una pausa in mezzo. E vedremo se X-Men, Wolverine e Hannah Montana The Movie riusciranno a entrare nella top 5 degli incassi ai botteghini italiani, una classifica che non ha subito scossoni nello scorso fine settimana, ma ci racconta tutto Daniela Fagion. Podio invariato, ma anche due nuove entrate tra i primi 5 film più visti lo scorso weekend. Debutta al quinto posto Generazione 1000 euro di Massimo Venier, oltre 530.000 euro per Il precariato, interpretato da Alessandro Tiberi e Carolina Crescentini. Non hai la faccia da marketing. Ma grazie. È il complimento più bello che mi hanno fatto negli ultimi 6 mesi. Solo una magia spiega il quarto posto di Houdini, L'ultimo mago, biografia dell'illusionista Maggiaro, che incassa quasi 550.000 euro. Io non voglio essere ricordato per stupide acrobazie. Il mio esperimento medianico è scienza. Altri 616.000 euro per Questione di cuore, che arriva così a 1.630.000 euro e conserva la medaglia di bronzo. Altri 622.000 euro invece per Mostri contro alieni, che viaggia verso i 7 milioni complessivi, saldo sul secondo gradino del podio. Un UFO è atterrato in America, l'unico paese al mondo dove sembra che atterrino gli UFO. Poco lontano dai 7 milioni è arrivato anche Fast and Furious solo parti originali, che al secondo fine settimana in sala incassa 1.600.000, scansando agilmente la concorrenza. La rosa purpurea. Seconda parte della Rosa Purpurea, procediamo speditamente nell'analisi dei film che sono arrivati sui grandi schermi d'Italia in questo weekend, affrontando State of Play. Personalmente lo ritengo il film più bello, più interessante, più pieno di stimoli di questo fine settimana. Dirige Kevin MacDonald, protagonista Russell Crowe. Si comincia con un ragazzo che corre a perdifiato per le strade di una Washington notturna bagnata dalla pioggia. È braccato da qualcuno che dapprima non si vede, poi si palesa in un vicolo cieco e Fred è il ragazzo con qualche colpo di pistola a bruciapelo. Gli prende una busta e fa per andarsene, ma in quel momento passa una bicicletta. È un fattorino della pizza e quello non è certo il suo momento fortunato. Un fugace scambio di sguardi con l'assassino e altri due colpi di pistola. Il testimone va eliminato. Il ragazzo è a terra, agonizzante, accanto alla prima vittima. L'assassino fugge. Esterno, giorno, Washington si sveglia brulicante nei cunicoli del metrò. Una ragazza dallo sguardo teso si avvicina alla banchina. Troppo. Il treno la travolge. Ci sono due morti e un ragazzo in coma nel nuovo giorno della capitale federale, ma è la ragazza a scatenare l'interesse dei media. Era infatti l'assistente e l'amante di un brillante politico, Stephen Collins, interpretato da Ben Affleck, a sua volta vecchio compagno di scuola di un giornalista del Washington Globe, Cal McCaffrey, un Russell Crowe ottimo e abbondante. È a lui che Collins rivela i suoi dubbi sulla morte della ragazza. Non si è suicidata. Tu come lo sai? Ciao, amore. Volevo augurarti buona fortuna. Distruggili e... non vedo l'ora che arrivi il weekend. Ti amo. A dopo. È di stamattina. Ti sembra una persona che sta per suicidarsi? No. L'hai fatto vedere a qualcuno? Oh, avevo pensato di mandarlo su YouTube. Ehi, sai una cosa? È questo il momento in cui ti chiedo come puoi essere così stupido. Questo cambia tutto. Ribalterà tutto a tuo favore. E come si fa? Controbatteremo con i fatti. Parte l'inchiesta giornalistica mentre monta lo scandalo per il giovane politico fedifrago. Al Washington Globe si scontrano due generazioni di cronisti. La direttrice del giornale, la grande Ellen Mirren, ha deciso infatti di affiancare al vecchio e pesante Cal, giornalista all'antica che si sporca le mani con le fonti per scovare il marcio della politica, la giovane e agile blogger del giornale Della. Una piccola riflessione: incredibile come questi aggettivi, lui pesante, lei agile, siano fisicamente incarnati dai due protagonisti Russell Crowe e Rachel McAdams e rispecchino anche il dilemma del giornalismo di oggi, diviso tra il desiderio di indipendenza e la ricerca dell'autorevolezza dei giornali tradizionali e la ruspante, impermanente, in fondo fatua, freschezza dei giornali online alla ricerca di tutto quanto fa click. Ma dicevamo, il vecchio giornalista e la giovane blogger entrano in contatto e anche in contrasto, e con loro due filosofie per una professione. Tu vuoi che me ne stia a ciondolare in un ospedale, aspettando un uomo che pare stia per risvegliarsi da un coma, mentre tu metti insieme il resto dell'articolo? E insomma, è di questo che parlavi prima. Senti, le cose stanno così. Non sono aperte a interpretazioni, non richiedono opinioni. Abbiamo due cadaveri e un uomo in coma. E abbiamo una traccia che non ha nessun altro, quindi devi deciderti, perché io devo seguire un'altra pista stasera e non posso essere in due posti contemporaneamente. Man mano che l'inchiesta di Cal si avvicina al suo nocciolo torbido, lo scenario dei protagonisti muta di ruolo e significato. L'amico si scopre braccato, il nemico un valido alleato e Cal in costante pericolo. Fermiamoci qui con il racconto. Ottimo film questo State of Play, abbiamo detto. Del resto Kevin MacDonald ci aveva già convinto con L'ultimo re di Scozia. Un film che sta pienamente e legittimamente nella grande tradizione del cinema politico americano dai Tre giorni del Condor in poi. E questo perché va al di là della pur serrata trama gialla che cerca di rispondere alla domanda che nesso c'è fra i tre omicidi di inizio film. Qui si parla anche di importanti funzioni della difesa appaltate a società private, e noi ne sappiamo qualcosa, della crisi della carta stampata, e anche questo è un tema che non ci è estraneo. Insomma, è un buon thriller politico, ma è anche una bella analisi sulla nostra società occidentale. Piccola curiosità, il ruolo del giornalista doveva essere interpretato da Brad Pitt, che 4 giorni prima del primo Chuck ha lasciato. È probabile che con Russell Crowe il film ci abbia guadagnato. Sentiamolo raccontare la sua visione del giornalismo. You know, I have a great deal of respect for... people who take the job of journalism seriously. Ho grande rispetto per chi fa il mestiere di giornalista seriamente, per chi lo vive come una professione nobile. Ho problemi invece con chi lo fa in modo disonesto per procurarsi dei vantaggi personali. Preferisco un cronista umile ma che lavora in modo onesto, scrivendo la verità, senza mettere se stesso al di sopra della notizia. If they won't actually just write the truth instead of trying to elevate themselves above their subject and their material. Ed eccoci arrivati alla prima finestra aperta sulla DVD Game, il gioco che ogni settimana fa vincere agli ascoltatori della Rosa Purpurea dei DVD, dei film in DVD, che però prima bisogna indovinare. Allora noi cominciamo con il farvi ascoltare la prima traccia del film misterioso di questa settimana. Prima di mettere i voti ricapitoliamo. Chi si ricorda le due scelte? Signor Fabio. Allora, lettera A, lavori assistenziali, che non si fa fatica, beh, non serve a niente. Perfetto. Poi, lettera B, che è proprio entrare nel mercato e ci si fa un gran culo, però si può essere utile agli altri e forse si fa il grano. Cinema italiano, come avete capito, la rosa purpurea @radio24.it è l'indirizzo di posta elettronica se avete già la risposta, se no più tardi ci sono altre due possibilità. E noi proseguiamo con la nostra cavalcata nella settimana cinematografica, affrontando un film che si intitola Lezioni d'amore, è tratto da un racconto di Philip Roth e ha come protagonisti due nomi importanti del cinema internazionale come Ben Kingsley e Penelope Cruz. Dirige Isabel Coixet, la regista spagnola che ci aveva regalato qualche anno fa un bellissimo film come La vita segreta delle parole. Lezioni d'amore, raccontato alla Rosa Purpurea da Barbara Righini. Una riflessione sulla vecchiaia, sul tempo che passa e sull'impossibilità di fermarlo, Lezioni d'amore. Tratto dal romanzo di Philip Roth, L'animale morente, racconta la storia di una passione che si trasforma in amore, quella fra un uomo ormai anziano e una ragazza di 30 anni più giovane, bellissima. Questa è davvero una lettera di Kafka? Sì, è una delle lettere che lui ha scritto a Milena, il dono di una persona. Molto vicina a lei? Che mi è stata vicina, signorina Castillo. Consuela. Non siamo in classe, evitiamo di essere formali. Consuela. Il professor Kepesh ha in mente una sola cosa dal primo momento in cui Consuela entra nella sua classe: portarla a letto, come già in passato ha fatto con molte studentesse, scegliendo una vita dissoluta proprio per non affrontare la vecchiaia che inesorabilmente a ogni giorno che passa si avvicina di più. Il professore è sicuro di sé, ma con Consuela presto perde il controllo fino a lasciarsi ossessionare dalla paura di perderla. Che cosa ci fai qui? Stavo andando a trovare un amico che abita qui vicino. Tutto qui. Sei venuto a controllarmi? Te l'ho detto. Ero nei paraggi e ho visto questo posto. Hai deciso di rovinare tutto? No. E allora cerca di fidarti di me. Tutta la tracotanza di Kepesh finisce per dissolversi davanti all'unica donna che abbia mai amato, mentre il suo egoismo allontanerà Consuela. Nel ruolo della ragazza una Penelope Cruz irresistibile, così come Ben Kingsley in quello del professore. Dennis Hopper, sebbene incarni un personaggio minore, lascia il segno. E il nostro Boris Sollazzo ha incontrato la regista Isabel Coixet. Un film molto fisico questo Lezioni d'amore, c'è molto più sesso fra i protagonisti rispetto alle sue pellicole precedenti. Semplicemente perché è un personaggio diverso, la relazione che hanno inizia come una relazione carnale. In realtà quando qualcuno ti fa complimenti paragonando il seno a un'opera d'arte, all'inizio è molto appagante, ma poi diviene come una prigione. E poi quando si verifica la tragedia, tutto questo appagamento è una trappola. Per quanto riguarda gli altri film, il personaggio di Anna, nella vita segreta delle parole, si vergognava del suo corpo. E quello di Annie, in La mia vita senza me, non pensa mai al suo corpo. La prima volta che si rende conto di avere un corpo è quando le dicono che sta per morire. Il film che andrà a Cannes, Maps of the Sound of Tokyo, è il film più sessuale che ho fatto, perché parla di un uomo che ha una relazione con una donna mentre pensa a un'altra. Una relazione con una mujer mentre pensa in otra. Dal cinema dei sentimenti al cinema politico e anche biografico, come nel caso del Che Guerriglia. Siamo ormai a un mese dall'uscita di Che l'argentino, che ha raggiunto quasi 2 milioni di euro di incasso, ed arriva nelle sale in 180 copie la seconda parte del film di Steven Soderbergh, Che Guerriglia, appunto, interpretato ancora una volta ovviamente da Benicio del Toro, che per questo ruolo, per il ruolo di Che Guevara, ha vinto l'anno scorso il premio per il migliore attore a Cannes. Questa volta ritroviamo un Che Guevara nel pieno del suo fulgore politico, della sua fama, del suo potere. A un certo punto però scompare e riappare in Bolivia, in incognito, ancora una volta, a fare il guerrigliero. Ma ci racconta tutto Micaela Bellisario. È il 1966 quando il Che, trionfatore della rivoluzione cubana con Fidel Castro, decide di lasciare onori e gloria e la famiglia per cominciare una nuova rivoluzione in Bolivia. Il Che a La Paz incontra altri compagni e con loro inizia la guerriglia nella giungla. Ma i suoi sogni rivoluzionari sono subito costellati di difficoltà. Dopo i primi successi contro l'esercito boliviano, Ernesto Che Guevara si ritrova a fare i conti con le imprudenze della sua gente a La Paz, Tania, che durante una perquisizione fa trovare diari varie foto rivelando la sua presenza nel paese. Il Che perde poi contatti con L'Avana a causa di ricetrasmittenti difettose e soprattutto capisce di non avere l'appoggio dei contadini. Non so quando, ma presto affronteremo il nemico. I nostri contatti con l'esterno saranno minimi. Alcuni di noi moriranno ed è triste vedere i tuoi compagni morire, perché le tue risorse sono limitate e non li puoi aiutare. Il cibo sarà scarso. A volte potremo non avere niente da mangiare. E se questo ancora non bastasse, dovremo sopportare l'inclemenza del clima. E alla fine saremo quasi dei rifiuti umani. Questo è tutto quello che vi posso promettere. Pensateci bene. Ed è proprio un contadino a tradirlo, minacciato dall'esercito nel quale si erano intrufolate forze speciali americane. Il 9 ottobre del 67 il Che viene ucciso. Emozionante la recitazione di Benicio del Toro nei panni di Ernesto Che Guevara, intensa anche nella dolorosa presa di coscienza del comandante man mano che gli eventi precipitano. Adrenalinico, ritmico e veloce, Che Guerriglia trova la sua perfezione in questa seconda parte del lavoro di Soderbergh, dove il regista ha scelto di privilegiare una chiave più documentaristica. Del Che alla fine resta allo spettatore una incredibile inquadratura sulla nave che lo sta portando a Cuba, la stessa immagine che aveva aperto il sogno rivoluzionario di Che, l'argentino. La Rosa Purpurea. Ancora due film di cui parlare in questa puntata della Rosa Purpurea, cominciando con il ritorno di un regista che una decina d'anni fa, insieme al più noto Lars von Trier, aveva davvero sconvolto, scosso il mondo del cinema con la creazione di una sorta di manifesto culturale che si chiamava Dogma e che prevedeva tutta una serie di regole con le quali girare i film, ma che aveva anche firmato a sua volta pellicole che avevano avuto un ottimo riscontro dalla critica e dal pubblico. Pensiamo per esempio a Festen. Stiamo parlando di Thomas Vinterberg, che torna con il suo nuovo film, che è una sorta di seguito proprio di quel Festen che lo aveva rivelato al mondo parecchi anni fa. Il film si intitola Riunione di famiglia, lo ha visto per noi Barbara Righini. È un film attentamente calibrato, Riunione di famiglia, che non per niente porta il sottotitolo Festen, il lato comico. Con Festen ha molto in comune, anche in questo caso come nel film più famoso del regista, al centro ci sono una famiglia, un ritorno, vari scheletri nell'armadio. Anche in questo caso poi Vinterberg sa essere tagliente, irriverente e ironico, anche se questa volta mantiene la mano più leggera. Quando organizzi una cena di famiglia, devi seguire queste regole fondamentali. Primo, ricorda bene le bugie che hai raccontato. Mi avevi detto che papà era morto. Ho detto questo. Secondo, se inviti la tua fidanzata, tieni alla larga l'amante. Il regista, capostipite insieme a Lars von Trier di Dogma 95, esperienza ormai archiviata, racconta del ritorno in un paesino della Danimarca di un famoso cantante lirico che aveva vissuto lì la sua infanzia. L'arrivo in città di Carl Christian Schmidt getta tutti nel panico da preparativi. Voglio fagiolini, carciofi, zucchini, melanzane, peperoni, di tutto di più, montagna di verdure, ora! Uno dei camerieri, Sebastian, si troverà presto al centro della scena, scoprendo di essere molto legato al cantante. Ma Carl Christian non è l'unico personaggio a riapparire all'improvviso. Nella vita di Sebastian piomberà in attesa una vecchia fiamma, Maria, ma Sebastian stava per sposarsi con Claudia. E allora abbiamo contattato al telefono proprio il regista danese, Thomas Vinterberg. Sono passati 10 anni da Festen, film che le ha dato il successo. Come mai tornare sugli stessi temi? I think I choose to come back to myself. In realtà ho scelto di essere fedele a me stesso. Per me Festen è stato un grande fattore di disturbo nella mia vita. Certo, mi ha aperto tante porte, mi ha incoraggiato a provare strade nuove, ma con questo film, in modo più sereno, con più calma, ho provato a tornare a ciò che ero quando è cominciato tutto. And come back to who I am and where it all started. L'unione di famiglia segna anche il suo personale ritorno in Danimarca. C'è lei dietro al personaggio di Carl Christian Schmidt? Oh yes, definitely. I think you can say like this. The movie is about... Oh sì, assolutamente. Potremmo dire questo. Il film racconta di una persona timida, innocente, giovane e bella e di un uomo vecchio, corrotto, ubriacone, pieno di successo. Può essere che il film riguardi ciò che ero e ciò che sto diventando. What I once was and what I'm slowly becoming. Cosa le ha lasciato il Dogma? Well, I learned a lot from Dogma. I learned about what it is, what media I'm working. Certo, ho imparato molto, ho imparato a sfruttare tutte le possibilità, a non nascondermi dietro la musica o la luce. Ma devo dire che il successo di Dogma è stato un po' disturbante, ha creato grande confusione nella mia vita e nella mia carriera. Il Dogma è stata una rivolta contro le convenzioni, poi ha avuto successo, non potrà più tornare, c'è bisogno di nuove sfide. And we have to find, you know, challenges otherwhere. Riunione di famiglia nei cinema italiani. Ora noi siamo arrivati alla seconda finestra sul DVD Game di questa settimana. Ascoltiamo la traccia. Ma perché mi discoraggia? Io mi faccio un mazzo così per motivarli. Guardi che lei non li motiva. Lei li illude. Questi sono malati di mente. Non sanno neanche incollare i francobolli. Però sanno prendere in giro i dottori. Guardi, vedi questi qui. Questi non sono sbagli, questi sono disegni. Bravi, eh? Vi ricordo ancora l'indirizzo di posta elettronica per provare a vincere il DVD proprio di questo film, La Rosa Purpurea, @radio24.it. Se un uomo è un seduttore, è un supermacio. Se lo fa una donna. Il finale della massima potete immaginarlo da soli, ma del resto è filosofia imperante. E a proposito di filosofi, sentite come Umberto Galimberti definiva il concetto di ninfomania. Un prodotto dell'immaginario maschile che teme la sessualità attiva della donna perché l'uomo si compiace di attivare la sessualità nella donna, ma va in angoscia se la donna attiva la propria sessualità da sé. Niente da dire, lucido ed efficace. Ne parliamo perché fra i film che arrivano in sala c'è anche Valérie, diario di una ninfomane, e se ne è parlato molto in questi giorni, soprattutto per una locandina censurata e per una parola, ninfomane, che benché appartenente a pieno titolo al dizionario italiano fa ancora paura evidentemente. Nel film dello spagnolo Cristian Molina, tratto dal libro omonimo di Valérie Tassot, ex prostituta divenuta poi scrittrice di successo, Valérie appunto è interpretata da Belén Fabra, che ripercorre il calvario di una donna che ha bisogno fisico di un uomo ogni giorno, che ritiene di poter porre rimedio a questa sua condizione diventando una prostituta ad alto bordo e facendosi pagare per far ciò che altrimenti farebbe gratis. I miei soldi? Eccoli, tenga. Com'è andata? Bene, anche se era un po' noioso. Ti aspettavi un uomo colto, interessante, con cui poter fare conversazione? Ma le cose non stanno così e, perseguitata dai suoi ex amanti innamorati, clienti, gelosi, Valérie cadrà in una depressione cui solo l'amicizia evita l'epilogo drammatico, per poi rinascere e accettarsi per ciò che è. Non è un lavoro più difficile di un altro, è diverso tutto qui. Ma come fai a dire così? Noi donne abbiamo troppi pregiudizi. Il film è tutto qua. Belén Fabra è brava, Geraldine Chaplin una presenza, il tocco abbastanza delicato. I problemi sono altrove. Se l'ambizioso tentativo di Molina era quello di fare un melò romantico, nonostante il tema piccante, il tentativo fallisce a causa di una verbosità che riversa retorica sulla musica per estendersi ai dialoghi troppo calligrafici ed esplodere nella tendenza a tagliare con l'accetta le personalità dei personaggi. Ad esempio Jaime, l'amante, diciamo così, un po' troppo sbrigativo, sfiora il grottesco. Troppo rapidi e didascalici anche i passaggi da uno stato all'altro della condizione di Valérie, da ninfomane a prostituta innamorata. Insomma, se il film non decolla è per i suoi limiti oggettivi, non per una locandina certo meno provocatoria di tanta televisione in chiaro. Posso farti una domanda? Certo. Hai avuto un altro uomo prima di conoscere il nonno? È stato l'unico uomo della mia vita. E noi abbiamo ospite qui alla Rosa Purpurea, con un'intervista esclusiva, Belén Fabra, la protagonista del film. Ascoltiamola. Belén Fabra, quali sono state le difficoltà nell'accettare e nell'interpretare un ruolo come questo? Accettarlo per me fu molto facile, perché conoscevo Valérie. Accettare è stato facile, perché conoscevo l'autrice del libro, Valérie Tassot, e sapevo che era una persona interessante. In più, il personaggio in sé, nel copione, rappresentava una sfida. Ovviamente, quando ti propongono scene di nudo, devi pensarci un po'. Però il personaggio mi attirava e ho accettato. Bueno, me attraía moltissimo il personaggio, por lo tanto me decidí, quando me decidí ya dejé de pensar en ello. Come mai in questa società cosiddetta liberata si fatica ad accettare la libertà sessuale, soprattutto delle donne? In generale penso che nos da mucho miedo la libertà. Credo che in generale abbiamo paura della libertà, anche perché la nostra cultura, la nostra religione ci hanno educato in un modo tale per cui le donne hanno un ruolo e gli uomini un altro. Ci è difficile uscire da questi schemi. Abbiamo lottato per anni, ma le donne hanno questa educazione che ormai gli scorre nel sangue ed è difficile uscirne. Per me, come donna, è difficile sapere realmente se sono quello che mi hanno insegnato a essere, se sono quello che gli altri si aspettano che io sia, o se sono semplicemente quello che sono. Sono in costante lotta con me stessa su questo tema, ma è vero che spesso dobbiamo soddisfare le aspettative degli altri. E a volte vogliamo soddisfare lo che vuole l'altro, e è difficile. Infine, Belen Fabbra, cosa vuole dire al pubblico italiano per convincerlo a venire a vedere questo film? Io tratto di dire qualcosa in italiano. Io spero che mi comprendere o comprende. Questo è un film molto passionale e molto drammatico, che vuole, sta cercando vivere felice e libera. Non solo sesso, molto di più. Belen Fabbra, ospite alla Rosa Purpure, con questa intervista esclusiva sul film più controverso e discusso, non solo di questo fine settimana, ma di questi ultimi tempi. E noi, archiviata l'ampia, folta pattuglia di film nuovi che sono arrivati nelle sale italiane in questo weekend, ci concentriamo sulla nostra rubrica Trailer USA, la vetrina che ogni settimana vi seleziona un film a stelle e strisce in uscita appunto in America. E per questo ritroviamo la nostra Micaela Bellisario. Ciao Franco. Allora Micaela, la crisi morde, il cinema non può non accorgersene. Al Tribeca Film Festival, organizzato a New York da Robert De Niro, è passato un film, una docufiction, come si suol dire, intitolato American Casino, ed è uno dei primi film sulla crisi dei mutui subprime che ha prima investito gli Stati Uniti, poi il resto del mondo. Micaela, allora, cosa racconta questo film? Sì, Franco, come dicevi tu, è uno dei primi film sul tema e ha avuto peraltro un seguito notevole a New York. È un lavoro girato da una giornalista TV, Leslie Cockburn, e fa il punto sulla catastrofe generata dal credito facile. Nessuno si salva in questo docufilm, né i broker, né le banche, né i giornalisti, accusati in un certo senso di non aver capito quanto andava accadendo. Ora ascoltiamo un passo del trailer in cui si sente il potentissimo presidente della Federal Reserve Alan Greenspan che balbetta davanti al Congresso ammettendo i propri errori. I found a flaw in the model that I perceived is the critical functioning structure that defines how the world works. In other words, your view of the world, your ideology was not right. Precisely. Ecco, il film racconta il dramma della crisi soprattutto attraverso le storie dei comuni mortali, come il professore che passa in macchina davanti alla sua villetta con giardino, quella del sogno americano messa in vendita, e ci sono anche scene tristi. Sullo sfondo si vedono interi sobborghi spopolati, persone diventate homeless perché incapaci da un giorno all'altro di pagare il mutuo. A colpire sono le testimonianze dei broker che ammettono di essere stati molto avidi, attratti come erano solo dall'ingordigia per le commissioni. Ecco alcune denunce. So sad. I mean, it was like a funeral. I didn't know that there were investors who were getting rich off of people who are getting hurt. They were making a killing. It was like the lottery. Somebody will get thrown out of their house and you'll get a lot of money. And that's the whole street, all but three. Insomma, temi forti di cui il cinema tornerà sicuramente ad occuparsi anche in chiave di finzione. Basti pensare al previsto sequel di Wall Street con Michael Douglas e al nuovo progetto del cattivissimo Michael Moore proprio in tema. Grazie, Micaela. Ciao Franco, un saluto anche agli ascoltatori. Lì nella regia, fra poco parliamo di DVD e di cinema a 70 mm qui la Rosa Purpura. Restate con noi. La Rosa Purpurea. Il rush finale della nostra Rosa Purpurea, prima di passare al cinema digitale, ovvero ai DVD, è dedicato al cinema spettacolare in alta definizione, ovvero i 70 mm. Cosa sono i 70 mm? Sono i film che furono girati soprattutto tra la fine degli anni 60 e tutti gli anni 80, appunto in 70 mm, cioè con pellicole grandi il doppio, ma ampie il quadruplo del tradizionale 35 mm, che poi in fase appunto di proiezione regalavano una spettacolarità e una definizione che ancora oggi, pur con i mezzi digitali, è davvero difficile da raggiungere. Cinema di grande impatto visivo, quindi di grande spettacolarità, che è diventato una retrospettiva a Berlino nello scorso mese di febbraio, intitolata Bigger Than Life, e che ora diventa un'altra proposta, forse addirittura più ampia, tra il cinema Arcadia di Melzo e il cinema Oberdan, lo spazio Oberdan del centro di Milano. Ne parliamo con Pierino Fumagalli, il patron dell'Arcadia di Melzo, ma anche uno dei pionieri assoluti in Italia della tecnologia applicata al cinema. Pensate che il suo cinema centrale, appunto a Melzo, alle porte di di Milano fu il primo ad avere in Italia la proiezione in 70 mm. Allora Pierino Fumagalli ha messo insieme tutto quello che si può davvero trovare in 70 mm per riproporlo al pubblico di oggi. Vi assicuro, è un'esperienza straordinaria. Raggiungiamo Pierino Fumagalli, che saluto, a Copenaghen. Piero, cosa fai a Copenaghen? Ma sono a Copenaghen perché c'è un festival, una rassegna del 70 mm, simile a quella di cui stiamo parlando noi, che parte questo sabato a mezzo, per la visione di una copia che abbiamo trovato di film di Cameron, Titanic, per vedere lo stato della copia, perché l'idea è di portarla in Italia in dicembre, quando uscirà l'ultimo film di Cameron. Allora spieghiamo brevemente i titoli, Piero. Da Ben-Hur a Pink Floyd The Wall, da Patton Il generale d'acciaio a 2001 Odissea nello spazio, dai musical straordinari come West Side Story o Porgy and Bess a Spartacus, a Lawrence d'Arabia, insomma tutto il meglio del cinema spettacolare, del cinema coinvolgente, nella sua versione probabilmente migliore per quanto riguarda la fruizione. Sì, direi che è importante perché le generazioni di oggi non hanno avuto la possibilità di apprezzare questo tipo di pellicole. Quindi il fatto di dare la possibilità alla generazione digitale di oggi di vedere che cosa potrebbe ancora dare, diciamo, l'analogico, credo che sia un'esperienza interessante, insomma. In ogni caso stiamo parlando di film importanti della storia del cinema, film che hanno lasciato veramente un segno, quindi credo che sia interessante per tutti poter apprezzare e gustarsi una proiezione in 70. Perfetto, grazie allora Piero Fumagalli e buona caccia. Ciao, a Copenaghen, chissà che non ci arrivi anche Titanic. Ciao, grazie, ciao. Ed eccoci arrivati alla nostra zona dedicata ai DVD con Claudio Poffi, che è già pronto in collegamento con noi per aiutarci a districarci nelle offerte della settimana. Ciao Claudio! Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Allora, cominciamo come sempre con il dare l'ultima possibilità ai nostri ascoltatori per indovinare il film misterioso di questa settimana. Ascoltiamo insieme questa traccia. Bellissimo. Sì, anche secondo me. Anche a me piacerebbe tornare indietro e cambiare i miei genitori. Non so come ti capisco. Io non lo so come si fa con quel ragazzo. Guarda che nessuno lo sa. Era la terza e ultima possibilità, la rosa purpurea @radio24.it, se a questo punto avete indovinato di che film si tratta, per provare a vincere questo DVD. Il quiz della scorsa settimana. Allora, andiamo subito a sentire una delle tracce di 7 giorni fa. No! Fermi, cristiani! Se non volete patire, la nostra è stessa sciagura. Quali voi ci vedete, siamo colti da peste. La peste, la peste. Lo grande contagio. Lione verde, somma, giallo, giallo, l'armata Brancaleone. Si trattava dell'Armata Brancaleone, uno dei capolavori della commedia italiana, un film ancora oggi freschissimo, pieno di intelligenza, di arguzia e anche di risate davvero intrattenibili. Devo dire che è stato un game che ci ha dato grandissima soddisfazione, tantissimi gli ascoltatori che hanno provato a indovinare, molti quelli che ci sono riusciti. I più veloci e i più bravi sono stati Marco Menchinelli di Monterotondo, provincia di Roma, e Gennaro Cavaliere di Latina, quindi si rimane nel Lazio per questa Armata Brancaleone, forse giusto così, vista anche la provenienza e l'ambientazione geografica dello straordinario film di Mario Monicelli, di cui ci parla Claudio Poffi. Claudio. Sì, l'opera di Monicelli del 65 è in perfetto stato, è stata restaurata integralmente e il DVD la ripropone al meglio delle possibilità del supporto. Naturalmente l'audio originale monofonico, comunque anch'esso ascoltabilissimo senza alcun tipo di problema, nonostante il cofanetto in cartone non è presente all'interno alcun extra. Questo per quel che concerne l'Armata Brancaleone, i titoli Titanus che saranno distribuiti da 01. Andiamo a raccontare invece, Claudio, i prossimi due DVD della settimana, le due recensioni, cominciando da un film che personalmente è il mio film preferito della stagione 2008-2009, L'ospite inatteso, il film che ha più di tutti messo un passo verso la scoperta di un regista, verso la consacrazione di un attore anziano ma che non aveva ancora avuto ruoli così intensi, così drammatici a disposizione. Parlo di Richard Jenkins. insomma un film davvero straordinario per raccontare quello che è rimasto sulla nostra pelle dopo la tragedia dell'11 settembre. E allora andiamo ad ascoltare una traccia dell'ospite inatteso. Walter, vai mai a Broadway? No, veramente no. Tarek mi ha mandato il CD del Fantasma dell'Opera per il mio compleanno. Credo di conoscerlo a memoria. Mi sta insegnando a suonare il tamburo. Davvero? E come te la cavi? Beh, andavo meglio quando lui suonava con me. Il DVD di Perseo Video è di ottima qualità e, come dicevi tu, un film meraviglioso diretto da Thomas McCarthy. È la storia di questa esistenza monotona del professor Walter Veil, il personaggio appunto interpretato dal magnifico Richard Jenkins, che è un docente universitario che si ritrova praticamente con la vita a soqquadro dopo aver scoperto che la sua abitazione a New York è abitata abusivamente da una senegalese e da un siriano. Inizialmente ci saranno dei problemi chiaramente legati al fatto che insomma le persone non si conoscono. Dopo questa iniziale diffidenza inizierà insomma un'amicizia che porterà lo stesso docente universitario ad aiutare questa coppia in difficoltà. Ricordo che come extra sono disponibili addirittura informazioni sul tamburo africano che viene suonato nel film, un approfondimento sulla lavorazione, scene tagliate con l'eventuale commento opzionale del regista e il trailer. Noi per chiudere, per cambiare sicuramente clima e anche target, parliamo di Bolt invece. È stata una delle animazioni Disney di questa stagione, al cinema è arrivato in 3D, ora lo troviamo in DVD. Ascoltiamo un passaggio del film. Chi sei tu? Io sono Rino. Come rinoceronte? Sì, perché a dire la verità i miei avi non sono puri criceti. Ho un sedicesimo di lupo e un po' di ghiottone da qualche parte. Ma non è questo il punto. Davanti a noi abbiamo una leggenda, Bolt il supercane. Pubblicazione Disney per questa nuova, freschissima opera in computer graphic animation. La storia appunto di questa stella, di questo programma di Hollywood, questo cagnolino assieme alla sua padroncina. Lui è convinto di essere un supereroe, di avere dei superpoteri. Quando si ritroverà praticamente separato da questa giovane ragazza, praticamente scoprirà quanto in realtà essere normali è essere supereroi. Per quanto riguarda il DVD, sono disponibili numerosi extra per approfondire la complessa lavorazione dell'opera. Ricordo che il film Bolt è disponibile anche in Blu-ray alta definizione in un'unica versione, dove oltre al Blu-ray è integrato nella confezione anche un secondo disco con l'edizione DVD del film. A questo punto noi però vogliamo farvi ascoltare anche in questo caso un contributo, perché abbiamo sentito Raffaello Vecchione, italiano tra l'altro, anche se ormai lavora stabilmente in America, che ha partecipato alla fase creativa di questo film, perché è colui il quale da un foglio di carta con un disegno ha creato la statuetta, proprio ha scolpito la statuetta in 3D, che è la base fondamentale per dare natura, personalità ai personaggi e per poi arrivare alla vera e propria animazione al computer. Allora ascoltiamo sulla lavorazione di Bolt Raffaello Vecchione. Il mio ruolo è stato proprio nello sviluppo di tutti i personaggi del film, insieme ai designer Joe Mosher e Jin Kim. Loro proponevano il design di diverse varianti, sia di Bolt che Mittens che di Rhino. Quando poi i direttori hanno scelto una direzione particolare, in questo caso il Bolt che si vede nel film, il mio ruolo era quello di portare i disegni in tre dimensioni con una statua fatta di plastilina, scultura diciamo tradizionale. Questa statua diventa poi la guida per tutti i successivi passaggi nella fase del computer. Viene cotta e viene scannerizzata, poi vengono aggiunte tutte le texture, il pelo, il rendering, lighting. Cioè, il risultato finale si ha quando tutti gli elementi del 3D sono messi assieme. E con i DVD, come da tradizione, La Rosa Purpurea si chiude. Finisce la nostra ora insieme a parlare di cinema al cinema, ma anche in casa. L'appuntamento è per la prossima settimana qui su Radio 24, come sempre il sabato alle 18 e la domenica mattina alle 9. Un saluto da Franco D'Assisi.